in primo piano. Lunedì 24 maggio c'è chi sceglie di aprire sulla manovra imminente ormai. Stato più leggero il piano dei tagli per il Corriere della Sera, statali contratti a tempo dimezzati per il Messaggero. Mentre il Sole 24 Ore, edizione del lunedì, non ci dà un dato molto positivo. L'evasione sale a 120 miliardi. L'evasione fiscale è un calcolo fatto dal Sole 24 Ore, un calcolo prudenziale che insomma ritocca al rialzo quella cifra che spesso abbiamo dato anche noi di 100 miliardi di presunta evasione fiscale. Andrebbe rivista al rialzo, purtroppo. La Repubblica, e qui è il tema delle intercettazioni, giustizia, la sfida di Grasso, intercettazioni, leggi da cambiare. No al controllo del governo sui PM, anche per La Stampa, la frase di Grasso, mentre Il Giornale torna su case e potere, tutte le case della cricca. Mentre l'Unità, cosa resta di Falcone 18 anni dopo, ieri era l'anniversario della strage di Capaci. La manovra dunque, allora, ne si sta profilando all'interno del governo anche una sorta di doppia visione. Da una parte Tremonti, che vuole accelerare, portare la manovra tutta un po' blindata. Qualcuno, secondo il retroscena di alcuni giornali, dei ministri si sta lamentando, viene qui e tiene nascosti i conti e li vuole fare approvare solo in Consiglio dei Ministri. E vuole accelerare Tremonti entro mercoledì, perché poi giovedì parte per impegni europei. Mentre Berlusconi sarebbe della visione di dire no, facciamo una manovra più condivisa, facciamola conoscere anche agli altri prima di approvarla in così pochi giorni. Secondo Repubblica, l'immagine data da Tremonti è questa: la situazione non è bella, siamo alpinisti aggrappati a una parete verticale, non possiamo traccheggiare. Tremonti rifiuta ogni rinvio, siamo aggrappati a una parete, non possiamo perdere tempo. E allora pare, secondo il Corriere della Sera, che abbia prevalso la linea Tremonti, cioè il testo ai ministri entro mercoledì, e sfuma dunque l'ipotesi caldeggiata da Berlusconi di rinviare. C'è anche un'intervista a pagina 5 al ministro La Russa, che dice: accetta Italia al ministero, guardi, li accettano tutti, li accetto io, come li accettano anche gli altri. Forse saranno tagli del 10%, ma uguali per tutti. Anche se, dice La Russa, di certo su una cosa non risparmieremo, vale a dire le missioni all'estero dei nostri militari, perché lì ci va di mezzo la sicurezza dei ragazzi, entriamo in un ambito in cui le esigenze contabili non possono avere la precedenza. E poi proprio su questa doppia linea Berlusconi-Tremonti, dice La Russa: Tremonti finora ci ha fatto fare bella figura. Quando ero ragazzino c'era un segretario provinciale che guardavamo come un cerbero, non ci dava mai una lira, ma in fondo ci tutelava, ci metteva al riparo da tanti guai. C'è sempre bisogno di un uomo che guardi un po' meno alle ragioni della politica e di più a quelle contabili. Lo ritiene più vicino alla Lega che al PDL? Chiede Marco Galluzzo. Tremonti ha dato al governo tante risorse per la capitale, per Catania, per Napoli. La sua formazione culturale lo porta a essere un uomo del Nord, ma è e resta un uomo del PDL. E allora, tra l'altro, il Corriere della Sera che fa? A pagina 2 e 3 con Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella fa due pagine intere di quello che sono le ipotesi. Taglia alla spesa pubblica, stipendi congelate, fatture telematiche, questo starebbe anche arrivando. È tutto un resumé di quello che ci sono, di quello che c'è allo studio, dei punti su tagli, retribuzioni, banchieri, le finestre delle pensioni, le pensioni di invalidità, i tagli dei ministeri. Anche se qui, attenzione, perché Stella e Rizzo dicono taglio orizzontale del 10% dei beni e servizi, ma attenzione, per esempio, per gli organi costituzionali, Quirinale, Senato, Camera. Sono tutte entità dotate di autonomia pressoché totale. L'unica cosa dunque che può fare il Tesoro è ricordare pubblicamente: signori, il taglio è del 10%, sarebbe opportuno se anche voi... Quindi questo si può fare, non molto di più per gli organi costituzionali, quelli che hanno questa orribile parola che è l'autodichia, cioè una sorta di... proprio la vera e propria autonomia legislativa. Autodichia, andatevela a scoprire sul vocabolario, su internet, digitando su Google, vi si aprirà un mondo. E allora, riguardo sempre alle ipotesi della manovra, il Sole 24 Ore, pur essendo appunto l'edizione del lunedì, quindi chiusa con anticipo, ma con Gianni Trovati a pagina 7 fa un'interessante analisi del blocco ai contratti, perché questa è una delle idee allo studio, il blocco agli aumenti dei dipendenti del pubblico impiego. Una questione che, secondo Gianni Trovati, potrebbe far risparmiare 5,3 miliardi di euro. Questo, secondo la Corte dei Conti, serve per alimentare il primo rinnovo triennale nella storia dei contratti pubblici e che potrebbe essere bloccato. In questi casi, cioè per i 3,3 milioni e 300 mila dipendenti pubblici, l'austerità non si declinerà in tagli, cioè le buste paghe rimarranno sempre quelle. Ma in che cosa? Nella possibilità di bloccare il finanziamento dei rinnovi contrattuali, che si tradurrà sostanzialmente in un mancato aumento rispetto ai livelli previsti col meccanismo appena riformato. Ci sarà questo blocco degli aumenti che potrebbe far risparmiare, secondo il Sole, 5,3 miliardi di euro. Come al solito, tutte anticipazioni, bisogna aspettare la manovra. Certo, il dato non positivo che troviamo in prima pagina sul Sole 24 Ore per l'appunto è questo: l'evasione sale a 120 miliardi. L'evasione fiscale, Salvatore Padula ne scrive a pagina 5, è stato fatto tutto un calcolo dal Sole 24 Ore su che cosa? Su quello che si consente di quantificare la quota di evasione per ogni imposta, l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA. Si è partito dal rapporto tra gli imponibili e l'imposta effettivamente versata, gli ultimi dati disponibili ovviamente, si è ottenuta così l'aliquota media reale, si è poi tenuto conto di alcuni correttivi, insomma un complicato calcolo che troviamo appunto a pagina 5 e che porta a una forbice di presunta evasione fiscale da 105 miliardi di euro, così approssimativamente, fino a 118 miliardi di euro, fino a quasi 120 miliardi, dunque, di euro di evasione fiscale. Calcoli che vanno rivisti al rialzo, scrive il Sole 24 Ore, non certo un dato molto, molto positivo. Tutt'altro, spesso, ripeto, si diceva 100 miliardi la presunta evasione fiscale, Sole 24 Ore ci fa sapere che dobbiamo aumentare. E tra l'altro, a proposito di evasione fiscale, tutti i giornali parlano di questa lista falsiani. Io vi terrò informati per quel che riguarda gli articoli di giornale, no? Ricordate questo falsiani dipendente di una filiale dell'HSBC, banca svizzera, ha trafugato un dischetto con 180.000 erotti conti correnti di tutto il mondo. Ci sono anche 7.094 italiani che la Procura di Torino ha ottenuto come lista, nomi blindatissimi, ma si sa dal Corriere della Sera, lo leggo, stilisti e 400 società nella lista svizzera, ripeto, nomi per ora blindati, ma imprenditori, professionisti, avvocati, commercialisti, stilisti, sportivi, diplomatici, questi sarebbero le persone in questa lista sulla quale, ripeto, sui nomi c'è il riserbo più assoluto. Sarebbero persone che non hanno beneficiato del recente scudo fiscale chiuso a fine aprile. E scrive Mario Sensini sul Corriere: se fossero rimasti in Svizzera, paese non collaborativo, i titolari dovrebbero difendersi dall'accusa di evasione fiscale internazionale che prevede sanzioni pesantissime, fino al 50% delle somme nascoste al fisco, poi le tasse sul reddito maggiorate del 400% e l'inversione dell'onere della prova, cioè hai un conto lì, devi dimostrarmi tu che quei soldi non sono frutto di evasione fiscale e non lo devo dimostrare invece io. Staremo a vedere, chissà, se questa lista, sui cui nomi c'è riserbo assoluto, in realtà questo riserbo salterà e finirà sui giornali, come al solito. A questo proposito, io passo all'altro tema, perché finire sui giornali è una di quelle accuse per le quali si è detto ci vuole una legge per regolamentare l'intercettazione. La politica si interroga sulle intercettazioni, il tema del nostro sondaggio anche, il Cavaliere vuol stringere i tempi, chiudiamo subito l'accordo, stiamo cadendo nel ridicolo, è retroscena che leggo da Repubblica, pagina 3. Oggi in commissione al Senato dovrebbe finire l'iter, quella commissione che è stata convocata settimana scorsa anche di notte per poi calendarizzare tutto in aula. In aula si vedrà. Il procuratore antimafia Grasso ieri all'anniversario di Capace ha detto no ai PM controllati dal governo. Che succede? Spuntano i ritocchi, questo fa sapere il Corriere della Sera, intercettazione, spuntano ritocchi, l'ipotesi di modificare le sanzioni agli editori, sanzioni molto aumentate fino a quasi 500.000 euro per gli editori che pubblicano sui rispettivi organi di stampa. Questi stralci di intercettazioni, ci sono anche tante interviste. Pecorella, che è l'avvocato di Berlusconi, uno degli avvocati di Berlusconi, è onorevole e dice: bisogna tutelare la libertà di informazione. Questo lo dice al Corriere della Sera. Credo che in questa legge ci sia un errore di prospettiva, quello di colpire i giornalisti invece di prendersela con quelli che hanno responsabilità di custodire i testi delle intercettazioni. Ma ci sono anche varie prese di posizione, come Mario Calabrese, il direttore della Stampa, fa un editoriale: difesa di casta. Molti lettori hanno espresso il loro disagio di fronte alle centinaia di pagine di colloqui privati finiti sui giornali. Questo è l'esordio di Calabrese, cioè dire: è vero, è un'anomalia. L'idea che l'Italia si stia trasformando in una società di guardoni incollati allo spioncino delle procure mi inquieta e da mesi ne discutiamo in questa redazione. Resto convinto che in uno Stato di diritto e una democrazia sana spetti alla magistratura la valutazione degli indizi e delle prove. L'idea di una giustizia sommaria, somministrata sull'onda delle emozioni, è qualcosa che mi ha fatto sempre paura. Però, fatta questa debita premessa, Calabresi dice: non si capisce però come siano collegate la necessità di offrire maggiore privacy e vere garanzie agli indagati con la limitazione dei tempi delle intercettazioni o l'obbligo che per autorizzarle ci voglia un collegio formato da 3 magistrati. E quindi, dice, la legge in discussione, insomma analizzata, prevede delle cose sbagliate, dice Calabresi, tanto che è chiaro che questa legge ha poco a che fare con le preoccupazioni dei lettori e le sensibilità ferite di cui parlavo prima, mentre ha molto a che fare con la difesa corporativa e di casta, ma non della casta dei giornalisti, quanto di quella dei politici. Questo Mario Calabresi sulla Stampa. Il direttore la pensa in modo totalmente diverso, diametralmente opposto, Giuliano Ferrara, nell'editoriale del Foglio di oggi. Basta con sputtanopoli, inchieste, portineria, giornalismi origliatori. Questo è il titolo dell'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio di oggi. I grandi giornali di informazione conducono la battaglia contro la legge di regolamentazione delle intercettazioni nel contesto generale chiamata le armi in difesa della libertà di stampa. Così inizia Giuliano Ferrara. Però poi dice: molti degli articoli iniziano così, pubblicati in questi giorni. Non avremmo potuto scrivere quest'articolo se fosse in vigore la legge bavaglio. E chi vi dice, cari colleghi, che l'eliminazione di quegli articoli sia un danno alla libertà e al giornalismo libero? Per esempio, sarebbe gradita una risposta a questo quesito. Chiunque legge una decina di giornali quotidiani o settimanali stranieri non è mai, si dica mai, mai nella vita incappato nelle lenzuolate di intercettazioni di cui si parla e che sono l'oggetto della contesa. E perché? Perché altrove non si intercetta? Perché altrove non si delinque o non si indaga? No, semplicemente perché altrove, anche dove esistono mafie e criminalità organizzate, dove accadono fenomeni di lobbying, di corruzione politica, non si usa pubblicare lenzuolate di intercettazioni come materiale per l'intorbidimento delle acque. Siamo in un paese impazzito, conclude Ferrara, e dice: se avessi fiducia nella possibilità di ottenere che i giornali non pubblichino più quelle trascrizioni orrende, allora scenderei in piazza, firmerei appelli, farei la buona battaglia. Ma dall'altra parte, cari colleghi di Repubblica, questo editoriale di Ferrara, anche se non si capisce bene in tutto questa giusta preservare idea di preservare la privacy, perché per preservare la privacy si debba andare a limitare l'uso delle intercettazioni, invece di limitarsi a fare come immagino fanno all'estero, dove non vengono pubblicate veramente sui giornali, come dice Ferrara, di colpire chi le pubblica, nel senso colpire anche chi le fornisce ai giornali. Banale, no? ma le soluzioni banali spesso sono quelle che non vengono perseguite. Le case della cricca, ecco la mappa, il giornale continua sull'idea case e potere. Tanto che a pagina 5 c'è l'elenco. Gianmarco Chiocci e Massimo Malpica si sono presi la briga di viaggiare un po' con una mappa ideale di Roma, tutte le case che hanno a che fare col sistema Anemone. E beh, si parte da Scaiola e il generale Pittorru, i due casi più famosi, ma poi ci sono tutto un elenco di nomi che vi risparmio. Leggeteli sul giornale, ma saranno decine, se non quasi sopra il centinaio, a pagina 5 con una mappa. Alcuni sono, ovviamente, come detto, Scaiola e il generale Pittorru, c'è il direttore del TG1 Minzolini. Cioè, c'è anche chi vive in case i cui proprietari vengono in qualche modo fatti risalire a Diego Anemone, appunto, a lavori anche. C'è Balducci, ovviamente, c'è il capo della polizia Antonio Manganelli, che però era stato avvicinato da Balducci, gli aveva proposto un appartamento, ma declinò, eppure finisce in questo elenco del giornale. Insomma, trovate un po' tutto lì. Oh, andiamo alle segnalazioni di cronaca, Che cosa ha combinato Sara La Rossa, Sara Ferguson, ex sposa, ex moglie di Andrea Duca di York, dunque in qualche modo legata alla Casa Reale, l'avete sentito, si è fatta incastrare da un giornalista britannico che si è finto imprenditore, ha detto voglio incontrare il suo ex marito, va bene, mi dia 50.000 sterline. Tutto filmato con tanto di mazzetta ripresa e messa sul News of the World, con il quotidiano nazionale che va a intervistare Gaddo della Gherardesca, che con lei ha avuto una love story di 5 anni. Che ingenuità, cosa ha combinato Sara La Rossa. Le ultime segnalazioni sono queste. C'è, come abbiamo sentito anche nel GR, la proposta, un disegno di legge al Senato di un senatore Costa del PDL, spostare a ottobre l'inizio della scuola. Siamo un paese turistico, l'8 settembre è presto, si sta discutendo questo. La disponibilità della Gelmini c'è, l'8 settembre è presto e forse la scuola inizierà a ottobre. Giusto, sbagliato, chissà, certo i genitori saranno all'ascolto, penseranno con la prima cosa che ho pensato anch'io, come si fa a tenere i figli per un altro mese in più, anche il mese di settembre. A proposito del ministro Gelmini, devo dire che con grande aplomb non ha per nulla commentato il tema che è diventato un tema politico del giorno. Io voglio andare a recuperare la frase giusta, ovviamente quando la vuoi andare a recuperare non c'è più, ma insomma Bersani gli ha dato della rompicoglioni. Questo è. Bersani ha detto gli insegnanti sono i nostri eroi, mentre il ministro gli rompe i coglioni. Il ministro Gelmini ha detto parliamo di politica, non voglio commentare. Ci sono state polemiche anche del mondo femminile, del Partito Democratico, che dice ma Bersani, ma cosa fai? Scendi nel turpiloquio? E c'è invece chi dice oh, finalmente Bersani che parla un po' come il popolo. Allora, voglio concludere con l'articolo secondo me più interessante oggi del Sole 24 Ore, abbiamo sentito anche un servizio nel GR. La Corte di Cassazione ha riscritto il dizionario dell'ingiuria, perché si ricorre in Cassazione anche per alcuni insulti, e Patrizia Maciocchi oggi ci fa sapere in prima pagina che l'asticella dell'ingiuria si sposta di continuo. Per esempio, attenzione allora a dare del gay, soprattutto se pronunciato con intento di offendere, c'è stata la condanna. Sul fronte delle offese è recente la censura della frase sarebbe meglio un uomo, attribuita a un sindacalista che in un'intervista valutava la gestione di un istituto penitenziario diretto da una donna. Dire sarebbe meglio un uomo non si può dire. Poi le maledizioni, l'augurio di morire di un male incurabile è condannato, non si può dire. Mentre ti faccio vedere i sorci verdi, sì, si può dire, c'è stata la soluzione, nessuna sanzione. Italiani di merda non si può dire, però non c'è l'aggravante di razzismo e quindi è scattata la condanna. Mentre si può dare dei neonazisti ai partecipanti a una manifestazione di Forza Nuova, perché rientra nel diritto di critica. E poi ancora, come dire, è da vietare la linguaccia nei gesti. Non entra invece il conflitto col bon ton chi si lascia andare a vibrazioni da Oktoberfest. Vabbè, insomma, il dizionario dell'ingiuria. Non si può dare del maiale, ma si può augurare di far vedere i sorci verdi. Si può dare del compagno di merende a un politico, non gli si può dare del vigliacco. Se no, c'è la condanna.